Perché abbiamo scelto un metodo contraccettivo diverso? Beh, dopo un paio di anni insieme era ora. La verità è che cercavo un metodo contraccettivo senza effetti collaterali. Alla fine abbiamo scoperto il congiuntivo sbagliato. Ed eccoci, ci siamo, benvenuto, benvenuti, benvenuto, vai, ci mettiamo l'asterisco generico, che come si pronuncia, Elenia? Benvenuto asterisco. Benvenuto, in maniera un po' robotica, sono benvenuti a tutti a questa prima puntata dell'Accademia della Brusca su Radio Wombat qui a Firenze. E cosa vi diciamo subito? Questa è la nostra nuova trasmissione, il palinsesto è sempre più ricco. Abbiamo iniziato da poco, ma siamo già abbastanza, direi, avanti con i lavori. E nella nostra trasmissione, quindi l'Accademia della Brusca, troverete una sorta di bisca clandestina linguistica per andare in barba ai cruschisti, quelli veri. E qua da noi, come disse qualcuno l'altro giorno sui social della Crusca, per davvero, disse che la linguistica è hardcore e quindi noi ci occuperemo di cose molto hardcore, della linguistica, della grammatica e via dicendo. E quant'altro? Allora, iniziamo un po' con le presentazioni. Moshi. Allora, al microfono, ai microfoni di Accademia della Brusca troverete me, che sono Elena, io che sono Elena. E volevo essere una linguista, ma dopo la laurea in filologia il mio dottorato era senza borsa, quindi completamente gratuito, e ho continuato miseramente a fare la commessa in una profumeria dove tutti mi pronunciavano male i francesismi. E invece abbiamo qui anche... Ciao, sono la Nenia! La nostra amica Nenia. Che di linguistica non sa un cazzo, però ha deciso di fare comunque questa trasmissione con Elena, così, per simpatia. Che non è vero che non sa un cazzo, come dice lei, di linguistica, perché in realtà, visto il suo lavoro, sa parecchio anche di grammatica. Attenzione, attenzione. La imparo ai bambini. Ve la impariamo a tutti qua, però, sull'Accademia della Brusca. La imparo ai bambini. E iniziamo un po' con un po' di musica. Sì, sì, io direi di scaldare gli animi subito con il nostro pezzo preferito. Non vi diremo niente su questo pezzo perché sicuramente capirete da soli. 1, 2, 3, go! Ciao! Mi piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri. Così potrei scriverti ti amo con un milione di O e verrebbe presto a poco così. Ti amo. Non mi chiedermi di avere un equilibrio anche in quei giorni. Non mi chiedermi di farti lo stufato quando torni. Non mi chiedermi il teorema di Pitagora, non ho la licenza media in prima, mi bocciarono. Non mi chiedermi di avere gambe lisce come seta. La ricrescita è una piaga e non mi basta una lametta. Ci vorrebbe un diserbante dedicato, io ce l'ho. Spero solo che rispetti il mio pH. Girls, quanta spontaneità nei miei modi schietti. Le mie movenze con pettini perfetti. Girls, che non so come si scrive. Non mi chiedermi se ho sexy più la fronte o le gengive. Non mi chiedermi di coniugarti i verbi, non li so. se li avrei saputi in morte li imparavo. Non mi chiedermi di amarti con le tecniche orientali, non cercare di sorprendermi all'incrocio dei miei pali. Non mi chiedermi di rivelarti dove il punto G, con il mio alfabeto arrivo fino a F. Girls, man, belle ragazze collocate e perfette, noi siamo top e dalle vedute strette. Girls, man, sinceramente non capisco chi ci piace, ma nei nostri playback ci mettiamo l'anima. Prototipo di donna libera, tutta acqua e sapone, non ti dai nemmeno un'aria. Tu così lucida ed estera, tu che sei più semplice di un mosaico con una tessera. Tu hai più colori di una gerbera, Venere berbera. Tu genuina come il Barbera, tu che non mi dai mai l'idea d'aver la minima idea di quel che dai. Se saprei parlare senza farti diventare rosso, se dovrei vestire i panni senza toglierli di dosso, se potrei dire cose meno imbarazzanti le direi, ma non sarei più gradita in una le mie movenze con tettini perfetti. Oh, quando uno è naturale, naturale. Tra l'altro questo è motivetto, niente male. Belle ragazze collocate perfette, gagliarde top e dalle vedute strette. Sinceramente non capisco chi ci piace, ma nei nostri playback ci mettiamo l'anima. Perché noi siamo belle ragazze collocate e perfette, per l'appunto. Assolutamente, questo pezzo, se non l'avete riconosciuto, era la Paola Cortellesi, perché qua si dice il nome proprio con la davanti, femminile. E, il pezzo era Non mi chiedermi, quindi problemi coi clitici forse. In generale con tantissime cose probabilmente. Allora, in questa prima puntata... Ecco, ci dica, di cosa parliamo quest'oggi? Cosa poteva esserci di meglio degli orrori grammaticali? Insomma, è un po' una puntata questa per rompere il ghiaccio, un po' chiamatela anche una demo. Ah, per rompere le acque, vuoi dire? Questo è uno degli strafalcioni di Ilenia. Questi sono i miei strafalcioni. Ilenia Strafalcones. Che è sarda, appunto. Un saluto a Ivano, che se ci sta ascoltando, il mio collega dalla Sardegna, avrà capito benissimo che Ilenia è una sua concittadina. Ciao, sono Ilenia, chiamo da Cagliari, voglio salutare, come si chiama il tuo amico? Ivano, ciao. Allora, parliamo di questi orrori grammaticali. Facciamo una prova. Digitate su Google errori grammaticali più comuni in italiano. Allora, la prima e forse anche l'unica fonte, chiamiamola così, a rispondervi sarà l'Huffington Post, quello, penso, dell'Annunziata, che in realtà ultimamente... Fra Blucher rasenta più, diciamo, i livelli dell'Ercio, che è un sito di tutto rispetto. Allora, cosa vediamo in questa classifica? Abbiamo ben 10 errori e partiamo dal a me mi piace, che è diffusissimo a quanto pare, il pull troppo. Vi ricordo che questi errori sono stati commessi durante l'esame di maturità del 2015, quindi è stata fatta una sorta di raccolta di tutti gli errori diffusi nelle prove, ovviamente scritte, e quindi troviamo anche il pull troppo, che è un errore commesso dal circa 6% degli studenti italiani alla maturità. Insomma, facciamoci qualche domanda. Il ce ne sono o ce ne sono, che è radiofonicamente quasi impossibile da farvi sentire la differenza. Poi abbiamo il 3 ore fa, accentato, meglio di 3 ore fa, quindi il 14% mette l'accento su fa, come se dovessimo distinguere tra il verbo e la nota, insomma. Certo, perché si sa che poi uno si confonde facilmente, chiaro, no? Per forza. Poi abbiamo lo studente insufficiente, questi il 18% dei nostri amici maturandi ha detto insufficiente. Va bene, dai, ma è una I di troppo, capirai cosa vuoi che sia. Sei proprio una grammar nazi, allora, anche tu. Di la verità. No, io sono buonissima, però... Oltre a insufficiente, dicevano anche conoscenza. Wow. Un teenager su quattro, dice l'Huffington Post, conoscenza. Fantastico, questi errori li faccio tutti anch'io comunque. No, non è vero, non ci credo neanche, guarda. Poi un po' versus un po', quindi un abbiamo... Un Arno, una donna. Una Teresa. Anzi, Dora Baltica, visto che stiamo parlando di strafalcione. Sì. Quindi la differenza tra po' accentato e po' apostrofato. Po' accentato non esiste. Il famoso qual è, con o senza apostrofo, 38% degli studenti hanno scritto qual è con apostrofo, però possiamo dargli un pochino ragione, vai, nemmeno io forse in quinta superiore lo sapevo. Non ci credo. No, non lo sapevo nemmeno io. Dici? Ilenia forse sì, dice. No, non so. E poi abbiamo finito. Perché commettiamo questi errori? Perché non è soltanto la mancanza di preparazione, ma è anche un problema che noi in italiano abbiamo, che è quello di uniformare regole complicate come quelle appunto della nostra lingua, quindi morfosintattiche, grammaticali e le mille mille eccezioni che la nostra lingua ha. È che secondo me l'italiano è proprio una lingua bastarda, diciamocelo chiaramente, dai. Chiediamo tutti quelli che la studiano, addirittura i tedeschi hanno problemi che insomma loro dai, stanno ancora a declinare. Nel senso, stanno ancora a declinare. Però secondo me i grandi problemi ce li hanno anche i grandi big della canzone, signore e signori. Ora vi faccio partire un piccolo pizzitto della storia della musica italiana, vediamo un po' se scoprite qual è l'errore. Zan zan zan zan. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà, mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo. Così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro. Sgamato Adriano! Adriano! Ai ai ai, signor Celentano, lei mi casca! Mi casca! Non mi ricordo più qual era l'errore adesso. Ma io non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già, insomma, ragazzi. Ai ai ai ai. Non è nemmeno una consecutio temporum, insomma, è una struttura che. Dai, via. Carezza nascerà, vai, davvero. A voglia. E quindi si parlava di errori e in realtà noi tutti i giorni ne facciamo tanti, un po' per forza di cose, perché ormai la nostra memoria li ha immagazzinati, quelli più diffusi anche secondo la Crusca, che sono quelli che un po', non proprio ai grammar nazi, ma stanno iniziando a dare un po' fastidio a tutti quanti, sono innanzitutto la famosa D eufonica, ovvero ci piace proprio tantissimo a noi, ci fa sentire l'alfieri. In realtà è sbagliata. Che cos'è la D eufonica? È quella D che noi mettiamo alla fine della congiunzione E, per esempio, lo facciamo diventare ed e la mettiamo davanti a qualsiasi cosa. Perché gratis, esatto. Quindi una cosa che, come il buffet, una cosa che è gratis, che fai? Me magno la qualunque. Esatto, per cui il problema è che suona male, e se proprio la si vuole usare questa diofonica va messa davanti alle parole che iniziano con la stessa vocale, in questo caso della congiunzione. Facciamo un esempio: ed ecco, non dici e ecco, se no ecco, cosa fai? Dici ed ecco. Ad Elena fa cagare. Fa cagare, diciamo, sono d'accordissimo. Cioè, ma viene proprio anche male dirlo. Ad Elena e ad Ilenia. Viene proprio male. Brutto, brutto. E ci sarebbero anche gli odd che possono essere. Però, cioè, se pronunciate odd potreste invertire il corso del tempo. Tipo la puntata di The Simpsons dove Homer, nello speciale di Halloween, ha ucciso una zanzara e praticamente ha fatto tornare tutti nel Pleistocene. Sei proprio tormenta. Si può. Poi vabbè, abbiamo il famoso purtroppo, che l'ho sentito dire anche l'altro giorno in bus. Purtroppo, signora, cosa vuole? Il biglietto del bus a Firenze costa 1,20 euro. Hanno detto purtroppo. Poi il piuttosto che. Nazi! Nazissimi, però insomma, il piuttosto che viene utilizzato per fare il famoso elenco. Vorrei le scarpe rosse piuttosto che quelle blu, piuttosto che quelle con i brillantini sbarluccicanti. In realtà no. Ha una forma differente, significa preferisco una cosa anziché l'altra. E poi abbiamo un ultimo, vai, prima di darvi un altro bel pezzettino da ascoltare, che è un po' e non un po', che abbiamo detto prima. Quindi non dobbiamo apostrofare, non dobbiamo accentare, dobbiamo apostrofare, e questa cosa in italiano si chiama apocope o troncamento. E ce l'ha anche la parola da mo, è da mo che v'ascolto, da molto. E ora io farei partire un pezzettino, niente male, sempre di un grande big. Mi fa impazzire, e soprattutto sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. Veramente, ragazzi, con questa è ora invece di darvi un po' di buona musica, e ci pensa Ilenia con un pezzo dal nome DJ Luigi Robin Hood Sindaco. Che spinge, ma nella città che il mio suono dipinge solo la bussola al nord e un sud, e il primo cittadino è Mr. Robin Hood. Quella filigrana che spinge, ma nella città che il mio suono dipinge solo la bussola al nord e un sud, e il primo cittadino è Mr. Robin Hood. Per oggi, per Luigi va già bene così, finito al lavoro, corro, prendo la TC. Come Benigni nel film, felici check-in, sinapsi mega screen, do uno sguardo all'edicola, l'umore rumore svicola, titoli su articoli mi cambiano pellicola. I confini dicono che sono già nei semi, i bambini scrivono nei temi ciò che temi. Dalle elementari, dolci merendine, inchiostre amari, preconcetti care, care impari, che per loro povere è sinonimo di nero. La melanina aumenterebbe inversamente al dinero. Sclero il pensiero di come sono messi, figli del progresso, dei progressi, gli stessi. Portano fiori a pappi a Bob Dylan, magari ti fanno Milan, e sì, è già. Ma la punta di diamante, se non sbaglio, era a fianco al poster di Coster, ah no no, ah, a quello della Lebo male che ci fa, se il significato one love non si sa. Quella filigrana che spinge, ma nella città che non sono dipinge, solo la bussola al nord e un sud, e il primo cittadino è Mr. Robin Hood. Quella filigrana che spinge, ma nella città che non sono dipinge, solo la bussola al nord e un sud, e il primo cittadino è Mr. Robin Hood. So che da sempre tu guardi in qua, soffia vento caldo sui tuoi figli, proteggiti dal freddo e dagli artigli, dai nemici, dai sacrifici, mezzo agli edifici grigi come la tristezza che li accolti ai loro volti, ridona la dignità tolta ai coi raccolti, ci si imbarca sull'arte e si schioda, salvo vocaboli simili di coda, altrove s'approda con le mie note, non d'un mondo avverso, perso in un concetto d'universo inverso, dove tizio merita rispetto quanto Caio, al cospetto dell'immenso, il mondo appare un formicaio, un punto lo haio, l'oceano una pozzanghera, nazionalismi, cismi, discorsi a bambera, non c'è confine che si possa tracciare, di chi diffidare ti posso elencare, tipo Romolo, Remo, Caino, Abele, coinquilini per la torre di Babele, questo best seller è scritto nelle stelle, il paradiso ai poveri, soldi Rockefeller. Quella filigrana che spinge, ma nella città che il mio suono dipinge, solo la bussola al nord e un sud, e il primo cittadino è Mr. Robin Hood. Quella filigrana che spinge, ma nella città che il mio suono dipinge, solo la bussola al nord e un sud, e il primo cittadino è Mr. Robin Hood. Va bene, nel frattempo l'Elena mi ha bevuto tutta la birra e quindi ora rimango a secco. Vabbè, pazienza, me ne vado, ciao. Non si fa così. Se poi ti do un po' della mia, dai. Vabbè, per forza, ti tocca. Allora, fino adesso abbiamo ascoltato un bellissimo pezzo, ma le cazzate torneranno, non vi preoccupate. Intanto abbiamo bisogno di urgentemente presentarvi la nostra rubrichina. Modi di sdire. Me l'avevano detto che donne, buoi e motori, son gioie e dolori. E di non mettere le donne i motori davanti al carro, davanti ai buoi. Ma io l'ho fatto e la donna volante, pericolo costante, mi ha rotto il carro. E siccome chi rompe caga, i cocci sono suoi e dei buoi, dei paesi suoi. Perché ho detto urgentemente? Perché devo fare a questo punto una confessione. Sì, lo devo fare, ne approfitto adesso, così poi tutti questi modi di sdire che stiamo per elencare, io penso, non so, l'80%, no, dai, ok, il 60% li ho detti tutti, in massima serietà, da sbronza e da sobria, ve lo giuro. Gli altri 40 sono a opera mia, quindi... Ora ve li elenchiamo. Una media, insomma. Insomma, dai, siamo. Ci facciamo delle grandissime serate, Lilene. Yeah! Allora, innanzitutto, il primo modo di dire è non piangere sul latte macchiato. Boh! Però aspetta, questo è l'unico che non ho mai detto, ma ce l'hanno regalato. Ce l'ha regalato la nostra amica in regia, che sta ridendo. Io! Il secondo è Tanto va la gatta al largo. E di chi sarà opera questo? Beh, perché i gatti nuotano, si sa, amano l'acqua e poi succede che ci lasciano le pennuzze. Ha un passato di... No, giuro, questo non l'ho mai detto. Dai, questo è uno dei più famosi, ma non l'ho detto io. Io ho detto cosa un po' peggio. Poi il dono dell'obliquità. Certo, chiaramente. Questo. Che ne so, non puoi mica stare su due posti contemporaneamente. No, cioè, se tipo hai un varco spazio-temporale da coprire nello stesso momento, cosa fai? Ti ci metti di obliquo, perché così cerchi di arrivare sia da una parte che dall'altra. La parte bassa sta a destra, la parte alta sta a sinistra. Poi, can che abbaia non dorme, ovviamente, perché se sta abbaiando... Casino. Anche l'occhio va dalla sua parte. Purtroppo è un problema anche questo, sì. Gli ortottisti ne sanno qualcosa. Ho avuto un crampo di genio. Questo ce l'ho, è mio! Tutto mio, farina del mio smacco. Ecco, avete capito, insomma. E gli ultimi due, bellissimi... Illudere la sorveglianza. Si fa un sacco. Guarda qui, ti ipotizzo. Girati dall'altra parte. E infine, chi cerca prova, perché nella miseria della condizione umana, chi cerca ci prova. Lascia fare. Insomma, dai. Vabbè, poi chiaramente ne sentirete delle snelle in futuro, non abbiate paura. Adesso vi daremo un pezzettino carino, tanto carino. Questo è un pezzo super serio. Vai, Nenia. Si parte. Facci godere. Via. Il discorso è questo. Ok, pronti. Ok, allora ripartiamo. Posizione di partenza, per favore. È un sogno. Sopra la panca la capra canta. Sotto la panca la capra crema. Avrete riconosciuto il mitico DJ Graff con il pezzo intitolato Sotto la panca. E adesso vi devo lasciare nelle ottime mani della nostra fantastica e super elenosissima nelle sgrinfie di Elena, perché vi presentiamo un'altra rubrichina che abbiamo deciso di intitolare e mo ti consiglio un libro. Ma vuoi lo stacchettino? E certo. Col fischietto? Col fischio. Una fionda. Beh, ma è meglio una fionda che una pistola, no? Un mattone. Ma... E i libri, indo ce l'hai? I libri? Ma ce l'ho tutti qua ce l'ho! E che ce fai con tutta sta roba? Ce lo so io. E ce lo sa Fierino, ce lo sa. Noi i libri non ce li abbiamo tutti qua, ovviamente. Quindi vi consigliamo una letturina niente male, che si chiama La situazione è grammatica. Perché facciamo errori e perché è normale farli? Di non mi ricordo l'autore, fantastico, però giuro. Sì, che vabbè, letto. Ma non importa. Ed è edito da Einaudi Tascabili. Perché non mi ricordo l'errore? Perché io l'ho comprato sul per il coso in quel sito famosissimo. E ho pagato in un click. Allora, questo libro in realtà, se lo andate a comprare in libreria, come vi consiglio di fare, è una brossurina molto sottile, quindi tascabilissimo, bello, leggero, non vi pesa e vi può aiutare un pochettino a migliorare quella che è la situazione della grammatica, perlomeno rendersi conto della situazione un po' a livello di errori in Italia. E ve ne leggo veramente uno stralcio brevissimo, che è anche molto patetico. Dai, leggicene uno straccio. Allora, capitolo 9 si chiama Qual de sac, che poi tra quelli che ti apostrofano perché metti gli accenti sbagliati e quelli che mettono l'accento sul fatto che sbagli gli apostrofi, non c'è da biasimarti se alla fine ti confondi. Dopotutto, quando scrivi a mano, l'unica grande differenza tra i due segni è data dal grado di inclinazione sul quale, dinanzi a eventuali obiezioni a parte dell'insegnante, potrai sempre giocartelo sul filo dei millimetri e sostenere che quello che sembra un accento in realtà è un apostrofo o viceversa. E questo, insomma, ci fa sentire tutti un po' meglio, tutti un po' più coccolati. Sicuramente. Poi non è una grammar nazi. Sarà. Ve lo giuro. Allora, adesso parte un altro pezzettino di musica. Abbiamo gli House of Pain. A voi l'ascolto. È una bomba. Eh sì, questo sì. Now your books are being let out, you asshole. Word is born and put rap cap cap. And now your books are being let out, you asshole. Word is born and put rap cap cap. And now your books are being let out, you asshole. Word is born and put rap cap cap. And now your books are being let out, you asshole. I break it off like a Kit Kat, 'cause you can't get that worthwhile style, underground sound. So you front and try to fake it, complain you never make it, and pretty soon you're broken butt naked. So your ass starts to rob and steal, mad jealous 'cause my shit's got mass appeal. And now I'm rhyming with Diamond D with some brand new shit for the year of 93. I got a loop from my great Eddie Duggan. The way I rhyme on the break, it's all the brothers fucking. You know I got the funky sound. You still still up in the air, cause last year I said jump around. I'm rolling thick so I know you see me. I got mad little white kids wishing they could be me. So don't step up cause I'ma come out blasting. You're just a quickie, punk, I'm everlasting. My man. Yo, it's Diamond D, the psychotic, neurotic, beats are idiotic, smoke the boom, that's exotic, with my man everlasting, brothers be asking me for the feet, kid, my name ain't Sebastian, giving my mom's demo tapes, foaming at the mouth, dreaming of making papes. I know you're thirsty, Lord have mercy, I got 10 acts and you wanna be the first G, come on daddy, let me breathe. Yeah, don't be the lint ball on my sleeve. Woo! Wanna be down with digging in the grapes. Have dough in the pocket and sleep way past eight. I know the feeling. You wanna be the one wheeling and dealing, but your shit ain't appealing. So make haste, I'll stick it to you like paste. Don't sleep, I got the nine on my waist. Diamond D, lick shot for the everlasting, and lick shot for the DITC. Yo, I'm well respected, my neck's protected, so don't get started, just disregard it, cause I'm retarded and I act real stupid. When I see a bootleg, I take my record and dope it, scoop it, just like a news reporter. I'm causing disorder, because I'm sorta sick of losing money when I work so hard. So if I catch a bootleg, and I'ma pull your card. Eccoci, siamo di nuovo qui a Radio Wombat. Tra l'altro vi ricordo dove ci potete trovare, online ovviamente, il nostro sito che è wombat.noblogs.org. Siamo anche sui social, quindi Twitter, twitter.com/radiowombatfi, come Firenze. Poi abbiamo Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze, e se ci volete scrivere una mail dicendo che siamo bravissimi, bellissimi, oppure che vi abbiamo fatto venire due palle così oggi, è postawombat@insiberia.net, e il Wombat vi saluta. Non è vero? Allora, pensavate, e invece no, abbiamo un'altra rubrichina che si chiama, abbiamo deciso di chiamarla, i puntini sulle U. In che senso? In che senso? Ecco, ce l'ha detto ben due volte. In che senso? Il caro Mimmo di Fianco Rosso e Verdone. In questa rubrichina vi diamo qualche esempio su quella che è la lingua parlata, su quello che si può e non si potrebbe fare. Oggi io e la Neni abbiamo scelto una parolina che in realtà è un po' ostica, nel senso, si dice a posto o a posto. Come stai, Nenia? A posto! A posto! questa è la versione con univerbazione. Quindi con la P geminata, la doppia P. In realtà si può dire in entrambi i modi. Io da emiliana dico a posto, con la O aperta. E, però qui siamo a Firenze, quindi c'è questa bella variante regionale dell'apposto. E sarebbe meglio utilizzare apposto con la distinzione, perché se pronunci poi apposto è un po' un arcaismo e potresti tipo trovarti compagno di banco del Franti, del libro cuore, e non lo auguro a nessuno, insomma, non è proprio una cosa bellissima. Vado apposta alla posta per pagare il bollettino, così sono a posto. Guarda che troiaio di frase che ti ho trovato. Che meraviglia, il famoso troiaio fiorentino. Però succede, lo diciamo spesso. Soprattutto paghiamo spesso i bollettini. Soprattutto. Merda. Benissimo. A questo punto io vi farò ascoltare un altro pezzo musicale. Questa volta non vi dico chi è. Back in the days on the boulevard I landed, we used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the abstract, and me, the 5-footer. I kicks the mad style, so step off the Frankfurter. Yo, Fife, you remember that routine that we used to make spiffy like Mr. Clean? A tidbit, a smidgen. I don't get the message, so you gots to okay. Run the pigeon. You're on point, Fife. All the time, Tip. You're on point, Fife. All the time, Tip. You're on point, Fife. All the time, Tip. But then grab the microphone and let your words rip. Now here's a funky introduction of how nice I am. Tell your mother, tell your father, send a telegram. I'm like an energizer, cause you see I last long. My crew is never ever whack because we stand strong. Now if you say my style is whack, I swear you're dead wrong. I say that body and El Segundo, then push it along. You'll be a fool to reply the fight was not the man. Cause you know, and I know, that you know who I am. A special shout out piece goes out to all my pals, you see. And a middle finger goes for all you punk MCs. Cause I love it when you whack MCs despise me. They get vexed, I will next, gonna contest me. I'm just a fly MC who's 5'3" and very brave. On top remaining, no home training cause I misbehave. I come correct in full effect of all my holes in check. And before I get the butt, the gym must be a wreck. You see, my aura's positive, I don't promote no junk. See, I'm far from a bully and I ain't a punk. Extremity of rhythm, yeah, that's what you heard. So just clean out your ears and just check the word. Check the time, y'all. Check the time. On the boulevard of Linden, we used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the Viper, and me, the abstract. The rhymes were so rumpin' that the brothers wrote the zap. Hey yo, Tip, do you recall when we used to rock those fly routines on your cousin's block? Let me see. Damn, I can't remember. I received the message and you will play the same. You're on point, Tip. All the time, Fife. You're on point, Tip. Yeah, all the time, Fife. You're on point, Tip. You're all the time, Fife. So play the resurrector and give the dead some life. Okay, if knowledge is the key, then just show me the lock. Got the scrawny legs, but I move just like Lou Brock with speed. I'm agile, plus I'm worth your while. 100% intelligent black child. My optic presentation sizzles the retina. How far must you go to gain respect? Well, it's kinda simple, just remain your own, or you'll be crazy, sad, and alone. Industry rule number 4080. Record company people are shady. So kids watch your back, cause I think they smoke crack. I don't doubt it, look at how they act. But off to better things like a hip-hop forum. Pass me the rock and I'll score them with the corn and proper. What you say, hammer? Proper. Rap is not pop, if you call it that, then stop. Sì, finiva così questo bellissimo pezzo dei Tribe Called Quest. E adesso siamo qui per presentarvi l'ultima, no, mancano ancora due rubrichine. La primissima che sentirete è questa, il parolone, Però non la presenterò ufficialmente io, la faccio presentare al nostro amico che state per ascoltare. Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile. Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile. Avrete riconosciuto un personaggio che io in realtà non conoscevo fino a una settimana fa. Non so come, nemmeno come cazzo si chiama. Luca è un bellissimo giornalista. Scusate, ignoranza, ma meno male, non lo conoscevo perché potrebbe aver avuto delle cattive influenze sulla mia acquisizione linguistica. E adesso parte il rubricone parolone. Allora, niente da dire. No. Questa era la super cazzo. No, il primo giorno è di riscaldamento, sì, va bene. Quando siete soltanto in dolce ad ascoltarti, via. Finita questa trasmissione vi sarete dimenticati. Anzi, scusate. Allora, il parolone. Parole in disuso. Quali sono le parole che sono un pochino in declino nell'utilizzo quotidiano della lingua italiana? Ilenia ne ha una bellissima, molto poetica. Addio. Ecco, addio. Addio è una parola che non si usa più. A me, per esempio, fa venire in mente tantissimo i vecchi film con Amedeo Nazzari, che guardava sempre mia nonna, che era una grande fan, però appunto. No, io farei una puntata solo su questa parola, per cioè, se non altro almeno dal punto di vista sociolinguistico e del motivo per cui ormai è scomparsa, no? Ci pensiamo un po' su, e magari vi propiniamo un... Io so che in italiano l'addio corrisponde all'inglese farewell, che significa proprio arrivederci a mai più. Buona non ci si. Non ci si. mai più. Non ci si, mai più. E io invece ho scovato casualmente una parolina che, in realtà appunto è in disuso e non la sapevo, che è il gran ciporro, che è perfetta per questa puntata. Fantastica. Perché il castrone, l'errore madornale che si commette non soltanto nella grammatica ma anche nella vita. Il gran ciporro. Ma. Questa in realtà non la sapevo nemmeno io. Pensa un po'. Abbiamo qualcos'altro? Direi che per oggi sono le 19.57, la nostra oretta l'abbiamo fatta, ovviamente. La Neni e l'Elena vanno prese a piccole dosi. Ci siamo portate a casa la prima puntatina, allora. Bene, niente male, dai, per essere la prima di riscaldamento poteva andare peggio. Non abbiamo lasciato i microfoni aperti, era la più grande preoccupazione di entrambe. Esatto, perché poi qua insomma, un pochino si casseggia tra un pezzo e una rubrichetta. Certo. Che fai? Sti pezzi lunghi sei minuti, vorrei vedere. Bene, allora ci lasciamo col pezzo della buonanotte a questo punto, appunto. Senza nient'altro nel mezzo, va bene, che ne dici? Le altre rubriche alla prossima puntata, così avrete anche più voglia di tornare. Avremo un sacco di sorprese per voi. Bene, allora ciao a tutti. Stasera parte qualche altra trasmissione? No, ma domenica sì. Quindi domenica abbiamo La fuga del gatto, o il gobbo che mi suggerisce, alle 4:30, e 3.000 siepi a seguire. Quindi rimanete sintonizzati su Signor Wombat. E come dicono qua a Firenze, buona cisi. Buona cisi. Buona cisi. Certo. Bene. Ciao. A lunedì prossimo. Ciao. Quero guarda e criminala respiro da fã agora como sai de cana cana cana mano xingarim de pano. pensate che ninna nanna senta luccare bambina. Talune scotte che stanotte come lotta mira. Quando le finestre sbattano, quando fortuna inferna, di che nuttate palpita, peso filo in bilico. Ombre casa intrecciano senza parlare, lascia la stascia, guarda ingagnesco che non buono pazziare. Paro pazzesco ma nata studia e zittita muto lassata senza parola. Vespa venire violo con corona e fiore lata. Sta città violenta è diventata, oppure muro cemento sarmato. Come campo che mino, tutti scavo se non trovo spino, vigilo che non tenono fino, a rederino ciotto e morto si passo con fino, con bui, non pittere in decuff, o fuglio da camuffo come chi provare truffa, vienta che spuffa, fritte brina ringo tufo, foggiallo si canto bufo, chiudo a sangue in ufo, sulle note so stufo, vado a scarfarsi in mano, so che l'esce ne retano, per scarfarsi i cani suono so strano, era un muro puro, esce ne paura d'oscuro, come l'ombra in coppia e muro, si configura sta mistura e sound, e nasce in underground, più gira e chiudo fai domande, leghe tracce come rotte notte, mani vinda sacca, reporte, tese come corte, piano forte, piano forte. Occhi aperti a prendere forma, realtà che si deforma come volti di vampiri al sole, ma in notte fonda una sonda lanciata in dimensione strada, solca oceani di follia a proda nel cuore della vita, dove solo i più forti sopravvivono, dove gli scarsi si insinuano, dove i più scalzi non camminano, dove le convinzioni rimano sbarre di opinioni, suoni che incidono un perimetro, dove all'interno si comprimono un minimo di essenze, fragranti differenti sostanze, si eliminano parvenze di incoerenze con incongruenze intense tra paranze. Non ti fidare mai delle apparenze, in quanto c'è chi gestisce il suo lanciando lenze, e pensa che lui pensa che sono parecchi gli attacchi verbali di poeti maledetti, prigionieri tra due specchi, ma liberi di urlare. Qualche non si lasceranno mai imbavagliare da un assegno circolare, restando voci del silenzio ibernate, nei bagliori dei riflessi dei fuochi e gli angoli delle case, nate da un'ennesima fase di un'evoluzione ancora in atto. Amicizie sfumate come un patto in stile pacco, dato il fatto che ora niente più conta di un contratto, ma si conta con quante poche monete la loro anima si sia comprata giù al mercato. Ha, ora il giorno è arrivato.